questo è un attimo, un momento importante, è praticamente la presentazione del progetto per Aspera ad Aspera, è alla terza edizione, quindi siamo nella situazione della giornata mondiale del teatro, quindi il giorno prima ci sarà questo evento dove saranno presenti alcune delle esperienze importanti del progetto per Aspera. D'altro, abbiamo scelto le nuove esperienze che si sono avvicinate in carcere, cioè artisti che lavoravano e che hanno deciso di entrare all'interno del carcere per davanti alla loro ricerca teatrale, come ci sono l'esperienza di Michela Casalboni e di Enrico Casale, no, degli scarti, Michela Casalboni che ha dell'Argine di Bologna. Ci sarà il capo del dipartimento, Bernardo Petralia, ci sarà Aniel Rena, che è un attore storico della compagnia Fortezza, ci sarà Giorgia Cardace, che è un'attrice, insomma, che parlerà delle questioni del teatro, e in conclusione il ministro Franceschini. E chiaramente ci sarà il presidente Profumo Lacri e Giorgio Righetti, che è il direttore. Importante aggiungere anche che la pandemia non ha fermato queste sperimentazioni. Beh, sicuramente è poi per tutti un momento difficile, ci sono state delle intermittenze, ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma nonostante tutto questo comunque è continuato il lavoro all'interno degli istituti in varie forme, come il teatro ha cercato di trovare una forma attraverso, insomma, attraverso internet, così sta accadendo anche con le esperienze di teatro in carcere, quindi ci sono scambi epistolari che prenderanno forma di libri, ci sono lavori che si stanno sviluppando anche a distanza in alcuni casi, dove si sta lavorando sulle scene civili, di drammaturgia, quindi il piano proprio di quello che sarà il prossimo lavoro che faranno alcune delle compagnie, e altre esperienze invece che sono riuscite anche tranquillamente a lavorare in presenza. Ma sono, cioè, è la vita normale di una compagnia di teatro. L'eccezionalità sta nel fatto che si svolge all'interno di un carcere, ma al netto di questa situazione, di questa collocazione, avviene che c'è un gruppo di artisti che si incontra con degli attori all'interno del carcere o anche tecnici, cioè aiuti scenografi, e si lavora su un'idea che viene sviluppata da ogni singola compagnia. Un aspetto importante secondo me del nostro progetto per Aspera ad Aspera, che lo rende unico come sperimentazione, è dal fatto che la cosa straordinaria è che dietro ci sono 10 fondazioni, sono le fondazioni bancarie che dal nord al sud stanno sostenendo queste 12 compagnie, ma il fatto che si parla di formazione ai mestieri del teatro, cioè quindi è solo e unicamente quella che è la creazione di spettacoli, ma anche proprio la formazione ai mestieri per i detenuti, per gli attori detenuti che lavorano in questo progetto. Ma io credo che sia quello che avviene davvero con una compagnia di teatro, quando incontra il pubblico, nell'incontro col pubblico, insomma, quando in estate si aprono gli spazi, in inverno, dipende dalla cadenza delle presentazioni dei lavori, è quello che avviene durante poi la preparazione delle opere. Credo che ci sia un gran lavorio, credo che il teatro nel carcere è una sorta di cuore pulsante, vivo, cioè un luogo, in genere sempre una cella, si può immaginare, ma che diventa il teatro e che dà regole completamente diverse proprio alla comunità che ci lavora direttamente, ma che influenza enormemente l'intero istituto. Questo è quello che è avvenuto a Volterra, ormai siamo a 33 anni, cioè lo spazio dove noi lavoriamo è quello in cui si rimmagina comunque la realtà stessa anche del carcere e delle persone, lì che viene reinventato quotidianamente, completamente, tanto che il vissuto, per fare un esempio, quello che chiaramente conosco più di tutti è la compagnia della Fortezza, il carcere di Volterra è cambiato enormemente, cioè oggi è un istituto all'avanguardia, 33 anni fa era un istituto tra i peggiori in Italia, quindi vedi, ci sono esempi concreti, no? E speriamo in questo progetto di avvicinare sempre di più il pubblico, ma anche la politica. Noi siamo molto felici che alla conclusione di questo incontro ci sarà Dario Franceschini, il ministro, in modo da poter sentire e rendersi conto, insomma, di questa particolarissima attività teatrale. Quindi continuiamo ad avere l'arte, il teatro e altre espressioni artistiche sempre al centro per lo sviluppo, per la conoscenza, per resistere alla situazione anche che stiamo vivendo, e grazie a queste espressioni che portano il teatro ovunque, con palcoscenici dappertutto, sicuramente un motivo di valore aggiunto. Armando Punzo, drammaturgo, regista, è con noi per Radio Città Fujiko. Io la ringrazio tantissimo e le do appuntamento a un altro incontro, sempre qui sui 103.1, e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi.